Pezzo. Vabbè, allora l'ascoltiamo insieme qui da Blu Radio Veneto all'interno della programmazione musicale Blu Radio Sera. Siamo insieme agli Elisabeth e la prima canzone che proponiamo è proprio questa, Piove su Milano. Blu Radio Sera. Delle tue parole piove quanto piove. Ho rinunciato per sempre a toccarti, ma in qualche modo so che ti arrivo ancora, ma mi manca la tua luce. Questa stanza piove su Milano, piove tra l'eco delle tue parole, piove quanto piove, piove su Milano, piove tra l'eco delle tue parole. Piove, è malinconica questa città, si sta meglio in due al buio, si sta meglio in due al buio, si sta meglio in due. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, tornati in diretta dopo aver ascoltato questa Piove su Milano. A cantarcela, a suonarcela erano, anzi sono ancora, gli Elisabeth dal loro ultimo CD che si intitola Ruggine. E allora, subito abbiamo capito un attimino il discorso legato proprio a questa canzone Piove su Milano, quindi un mondo visto anche dall'alto, da sopra le nuvole, come dicevi tu prima in apertura. Però vediamo che la traccia numero 12 dello stesso CD porta un Piove su Milano, seppur con la traduzione You Are My Light, cantata in inglese. Esatto, nel senso che la storia del brano non è finita qui. Infatti è finito come colonna sonora di uno degli spot di una compagnia elettrica. Sì, ricordiamo che c'era anche Jerry Scotti. Esatto, sì. Durante la presentazione di questo c'era spot c'era Jerry Scotti, la sì. Francesca Piccinini. Sì, giusto. Castro Giovanni, c'erano Fabri. C'erano un po' praticamente i più rappresentanti dei vari sport. Sì, rappresentanti dei vari sport della nazionale italiana, ecco. In quanto lo spot, la cosa interessante appunto era che era uno spot fatto apposta per le Olimpiadi invernali di Vancouver, i mondiali di calcio appunto e il torneo delle sei nazioni e quello della pallacanestro, ecco. Della pallavolo, non della pallacanestro, pallavolo. E anche la Champions. Anche sì, la poi Champions. È chiaro, si passava anche in Champions. In realtà passava dappertutto. Però anche negli stadi la cosa divertente era questa. Tant'è che ci sono stati i nostri amici che sono andati alle sei nazioni e hanno detto no, cavoli, allo stadio, anche qua non è possibile. Loro che sono andati lontano per non trovarvi, no? Eravamo noi. E data l'internazionalità della cosa, abbiamo reso il brano appunto in inglese. Sì. Esattamente. E l'idea dell'arpeggio iniziale che a me ha attirato molto, ma ha preso per quello io ed Alberto, l'abbiamo sentito, l'arpeggio iniziale. Eccolo, me lo fai, sì? Allora, lo faccio con due chitarre. Una 12 e una 6. Però quello della 6 è così. Gioco in re praticamente. È un gioco in re che entra immediatamente però secondo me e poi si sviluppa. Tipo, e sviluppa. L'idea era tipo del come si chiamano quei giochi? Il carrion. Carrion in inglese. Anche in dialetto reggiano, il carrion. Al carrion. Il carrion che in inglese dovrebbe essere the musical box. Dovrebbe essere quello se i Genesis non mi tradiscono proprio adesso. È giusto, è giusto. Tutto British in ogni caso, sempre sì, British. Sì, è chiaro, chiaro. A proposito chiaro. Di British, c'è anche la copertina molto British che fa vedere proprio una chitarra che porta la bandiera dell'Inghilterra in questo caso. Che è la mia chitarra, è la mia chitarra. Ah, era proprio la tua chitarra, sì, benissimo. Sì. E poi c'è anche un centro, voglio dire un... Si può utilizzare anche per il Dart Club in questo caso. Sì, no? Cioè, potete usarlo anche per lanciare delle freccette. Sì, però mentre ascoltate il disco, lanciare le freccette, rilassare. Sarebbe esatto il simbolo dei mod, ecco, il gioco è quello che... Esatto, sì. Vero. Della versione inglese. Sì. Sì. E a proposito di inglese, abbiamo citato gli U nella cassa della batteria, ma ci sono altre scritte che... Più che gli U mi ricordano, l'ho detto ai ragazzi prima di cominciare, mi ricordo più Jefferson Airplane, quindi molto, molto il discorso americano, anche se voi americano avete pochissimo. Però quelle scritte là mi ricordano i Jefferson Airplane, quindi quel power flower, quel potere dei fiori, quella fine anni 60, primi inizi anni 70. Beh, guarda, noi in realtà di americano abbiamo pochissimo, nel senso che se uno prende il disco, guarda la copertina e così via, non ci pensa. Esattamente. Però tra tipo i miei chitarristi idoli c'è Chuck Berry. Ah. E quindi e in realtà ognuno di noi ha la sua fonte preferita americana dove va a cogliere. Poi è chiaro, come band invece l'ispirazione generale arriva da U e da Weller. Però gli americani ce li abbiamo presenti. Ma perché Paul Weller, Marco? Assolutamente Paul Weller. Che Paul Weller ha avuto un percorso artistico piuttosto articolato. Guarda, io se devo essere sincero all'estremo, io l'ho apprezzato ancora di più quando era adesso che da solista. Cioè per me tipo Stanley Road è un disco incredibile. Cioè Changing Man, tant'è che piove su Milano in teoria non so, Changing Man è... il riff è quello, piove su Milano è un po' diverso, però l'idea era ce lo giochiamo in cioè giustamente uno si ascolta dei dischi e giusto. Anche involontariamente gli vengono in mano poi quella roba lì. Cioè immagino che se uno ascoltasse, non so, Chuck Berry, a me verrebbe da fare un altro pezzo così. Che prima o poi comunque lo sto già scrivendo. Non ho capito? Io l'ho riempita di note. Ah, l'hai riempita di note, ho capito. Vediamo cosa succede. L'altra regola è questa, se no io praticamente scrivo il pezzo e... ho già dato un'idea di stesura, ecco. E inizio, sto accordando nel frattempo, se sentite le cose sotto. Sono bello, sempre da vivo, io. Stai mettendo a posto la chitarra. E praticamente arrivo quindi con già tutta più o meno la stesura al corpo. Però è poi da mettere in pratica. Nel senso che, tipo, non so, di questo brano la parte è diviso in tre parti. Abbiamo la parte della strofa, il ritornello con questo riff, diciamo, con le questo gioco qua, e poi dopo la coda. E tipo il gioco è sempre questo, cioè dobbiamo trovare in realtà anche musicalmente un punto dove ognuno di noi possa sfogarsi, e la coda appunto la utilizziamo come sfogo personale, come un jam session minimo, esatto, tant'è che scende di colpo, risale, riscende, poi in acustico la stoppiamo anche un'altra volta, torniamo su, ed è il punto, diciamo, di sfogo totale del brano, ecco. Ha giocato bene lui in questo momento nella fase in realtà è sembra spento, cioè perché c'è da dire questo, che in realtà sembriamo tutti che giochiamo, ma normalmente facciamo un fracasso incredibile. Cioè, Flavio, che è un batterista, ha fatto un bel tocco, secondo me. Flavio, cosa dici? No, secondo me sì, è fortuna che non doveva parlare. Ha detto no, io mi metto qua a batteria, timido. In realtà, Guarda, ti raccontiamo questo aneddoto, no? È una storia che noi raccontiamo ogni tanto a Milano, perché abbiamo suonato a Milano in varie occasioni. Ci hanno detto: ma avete un volume inaffrontabile, come fate a fare delle prove del genere? E noi gli abbiamo spiegato: guarda, il problema è questo, ed è il motivo per cui anche nel disco c'è tutto questo sound, sì, che noi arriviamo da Reggio Emilia, cioè noi siamo dei contadini, non siamo delle persone di città gradevoli e simpatiche come invece si possono incontrare a Milano. Quindi noi sulle chitarre e sulle forche. Quindi il concetto qual è? Loro, no, devono suonare piano perché sono nello sgabuzzino, se no la signora del piano di sopra scende e li prende a ammazzate. È per quello che è nata anche la corrente intimista. Esatto, no? Esatto, sono tutti un po' più scuri, sì, a Milano, queste cose qua. Invece noi abbiamo il problema che dobbiamo riuscire a farci sentire perlomeno dal vicino di casa, che, dati i campi, è parecchio là. Quindi lo scopo è: chi più ne ha più ne metta, ecco, questa è la regola. E poi Smiro l'ha presa, che è il bassista un po' troppo sua, nel senso che lui quando può mettere 12 note in più lui ci riesce e le mette. Cioè, ma è entrato nello stomaco il bassista, è entrato proprio nello stomaco in questo momento. Esatto. Ma perché c'è questa cosa da dire, no? Che devo parlare con il microfono montecitorio. Ma un po' no, si sente, parla forte. Si sente, ah, okay. No, allora il discorso è questo, che noi in Emilia abbiamo molte analogie in realtà con l'America, perché abbiamo anche noi questa strada, abbiamo la via Emilia che ci attraversa, come loro hanno la famosa Route 66, questo accento molto, io non ho accento inglese, lui è spinstiano allora praticamente, ma in realtà un po' tutti siete spinstiani, sì, abbiamo un sacco di analogie, abbiamo questa campagna, le fabbriche, abbiamo un po' questo modo rurale, no? E infatti molti, insomma, rocchettari della nostra nazione, insomma, vengono poi dalle nostre parti. Per niente Guccini ha detto fra la via Emilia e il West, quindi insomma. Esatto, quindi cioè, noi abbiamo soprattutto West, soprattutto West. Abbiamo molto quel modo di fare un po' da Zappaterra, da sud, molto analogo al sud dell'America, insomma, quindi abbiamo quel modo di fare lì, e quindi noi legniamo forte, abbiamo questo. Invece un po' verso la Lombardia, Milano, così sono un po' più ricercati, hanno un po' più l'uso, non so, di strumenti acustici, sono, no, esatto, da noi prendere in mano la chitarra, esatto, prendere in mano la chitarra è un po' come andare in guerra, cioè quando tu fai le prove sei in guerra, esatto, il concetto, esatto. Cioè se per caso si sente più la tastiera dell'elettrica è un problema, cioè è una continua, si sfida, si alza, ecco. Sempre se uno si sente poco invece che far abbassare gli altri si alza. Ah, sempre. Ho capito, quindi non si deve mai abbassare, voi alzate sempre. Io sono famoso per rompere vasi nei locali con le vibrazioni. Sì, è successo un paio di volte. Sì, sì. Vabbè, quindi bisogna sempre tenere i bicchieri pieni, voglio dire, esatto, per far sentire la sì, vibrazione interna. E ah, quindi... ma ci riesce lo stesso, è inaffrontabile. Beh, è un peccato però rompere un bicchiere pieno di birra, no? In questo caso. Vabbè, allora, ascoltiamo qualcos'altro dal vostro disco. Guarda, cosa... vi facciamo La mia generazione, dai. Anzi, vi facciamo Certi giorni, così abbiamo un po' di volume. No, ehi. Dal disco. Ah, ok. Ah, ok. Sentiamo, perfetto. Facciamo un pezzo dal disco allora. Noi quindi, non siamo il disco, eh. Pensiamo su un attimo ancora. E quindi quale pezzo avete scelto? Ne avete citati tre o quattro. Guarda, ti facciamo sentire Un mondo per me allora. Allora, che inizia con un'ottima frase reggiana. Che esatto, è il barman, a proposito di birra e quant'altro, è il barman del nostro locale preferito, che è il Barricada. Ed abbiamo appunto chiamato lui, che in dialetto reggiano praticamente ci fischia dietro e ci dice: dunque, ragazzi, andiamo a casa a sgare al chitarre, che vorrebbe poi dire dunque andatemo a casa ragazzi a segare le chitarre e piantatela di fare del casino. Il concetto era poi questo. Va bene, dai che ce l'ascoltiamo. Prima una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo ad ascoltare un'altra canzone degli Elizabeth, che sono qui con noi a Blu Radio Vento. Ciao ragazzi, andiamo a cascare le chitarre. Per me, con un posto in prima fila, spot. Siamo noi, Ida Guglielmotti e Marco Parce, ad accompagnarvi dalle 17.06 nel viaggio virtuale di Serata in Blu. Anche quest'anno ogni giorno un tema d'apertura. La strada e i viaggiatori. Il web, la televisione, il cinema e il teatro, psicologia e pedagogia. Nella seconda parte invece gli appuntamenti di cultura e spettacolo, in collaborazione con le redazioni locali. Ed in chiusura le rubriche di turismo internazionale, i libri, la scienza, piccole lezioni universitarie ed arte. Serata in Blu, da lunedì al venerdì, dalle 17.06 alle 19.00. Sulle frequenze in blu. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E siamo qui ancora con gli Elizabeth per ascoltare insieme con loro il CD, ma assieme anche ai nostri ascoltatori, è un CD che si intitola Ruggine. Loro vengono da quel di Reggio Emilia, se ho capito bene, perché avete citato un po' le varie città emiliane e quindi ci avete portato anche, cos'è che si aspettano i veneti dagli emiliani? Delle tigelle, salame, gnocco, tortelli, siete preparati, soprattutto il gnocco, che oserei dire si mangia alle 10 del mattino per poterlo digerire poi per le 10 di sera o anche oltre. Della settimana dopo. Della settimana dopo, quindi Un Mondo per Me, abbiamo ascoltato dagli Elizabeth. Allora, Un Mondo per Me... In che senso? Il mondo che c'è adesso non vi piace forse? Beh, io direi che il momento attuale, al di là di tutto, non è che magari sia dei più belli, ecco. Sì. Però Un Mondo per Me è un brano che, al di là del toccare argomenti politici o altro, che noi ci asteniamo volentieri da tutta questa roba, è praticamente, dovrebbe perlomeno fungere da pulce per nell'orecchio per chiunque, nel senso che il testo dice: come mai la gente impazzisce per niente, basta un desiderio per rovinare tutto intorno a sé, nel senso che molte volte si rischia di rovinare amicizie e quant'altro per una stupidata. E il brano appunto era nato da una situazione tipo questa, ecco. Sì, esiste sempre comunque in tutti quel famoso momentary lapse of reason che porta poi a inimicarsi di diverse persone, quindi ogni riferimento a Pink Floyd è puramente casuale. Assolutamente casuale. È arrivata anche la nostra fotografa, ha rischiato di essere assiderata fuori perché mi sono dimenticato di aprirla. È rimasta la porta, noi, non quindi, è arrivata in ogni caso. E a Chiara, che poi farà la fotografia alla band. Una cosa volevo chiederti, musicalmente parlando, sì, British, ma in questo pezzo non era proprio totalmente British, secondo me. C'è qualche altro pargolo musicale che via via spuntava. Cosa dici? Beh, guarda, qua il bassista. Passo la palla, perché in realtà voi non lo sapete, ma Smiro ha fatto il era un DJ in una radio, tra l'altro importante, a stile rock, ecco, perciò bene, era bene. Sì, che rock, quindi Smiro, per la cronaca, è Michele Smiraglio, al basso. Sì. In realtà, se andate sul sito dell'Universal, questo noi lo raccontiamo ogni volta e ci ridiamo sempre, e cercate Elizabeth sul sito dell'Universal, non trovate, cioè trovate Marco Montanari, Matteo Montanari, Francesco Michalizzi e Emilio Smiraglio, e nessuno ha capito perché loro hanno scritto Emilio. C'è uno scioglilingua, in realtà ho un fratello gemello. Ed è un nome della Madonna, comunque. Io lo appoggio, Emilio è bellissimo. Se ti piace, è gemello cattivo. Ma quando non lo voglio andare a fare le date, mando lui. Certo. È perché voi siete assolutamente una band live. Sì. Suonare vi piace enormemente. Sì, beh, tutti i brani prima di finire sul disco e così via sono avete nati provato, live. Cioè, il concetto era: uno lo fa live, capisce dove stanno i problemi, dove sono i punti forti, e poi allora un brano dopo può essere portato in studio. Cosa che invece magari ultimamente fanno al contrario, prima registrano, poi vanno dal vivo con le sequenze e poi, e poi dopo crolla noi, tutto. Noi in realtà in passato abbiamo fatto da band, cioè pacchetto band a un tot di cantautori della nostra zona. Quali? Semi sconosciuti, insomma, cioè. ci siamo diciamo, messi in proprio negli ultimi 2 anni. Eravamo come un'azienda, andavamo a dare i nostri servizi a, come si dice, non ricordo. Sì, sì, beh. E adesso abbiamo tirato i remi in barca e ci siamo messi a lavorare per conto nostro. Sì. Eravate stanchi di accompagnare i cantautori? No, beh, anche perché sinceramente tutte le volte che ne toccavamo uno saltava. No, il problema è incredibile, era questo, no? Noi tipo suonavamo con diversi ragazzi, no? Cantanti e no? Anche altri musicisti, e poi magari dopo ti citiamo anche altre qualche altro racconto appunto su questi musicisti che hanno collaborato anche al disco poi. Certo, certo. E il più delle volte la situazione era questa: il cantante iniziava a cantare e non riusciva a gestire la band. Cioè del tipo, oh, suono bellissimo, alla gente piaceva un sacco comunque rock e così via, però il cantante non riusciva a starci dentro, ecco, non riusciva a reggere la cosa. Quindi l'unica soluzione è stata che io da chitarrista mi mettessi a cantare. Cioè i soldoni praticamente oscuravate il cantante? Stiamo ancora cercando un cantante. Ah, praticamente il cantante, cioè, dovevate essere la band di supporto al cantante, siete diventati la band principale. Sì, cantante, esatto. È andato di ritrovare. Esatto, sì, sì, tant'è che canto io. Ho capito. Un sacco di volte i concorsi, questi poveri cristi di cantautori, si prendevano delle recensioni del tipo ottima band, peccato per il cantante. E allora abbiamo deciso di mettersi in prova. Avete fatto bene. E perché non chiamarvi ottima band? Allora, perché mi sembra una parola un po' forte. Vabbè, come avrete capito, stiamo piacevolmente conversando, carissimi ascoltatori, con gli Elisabeth. Sono venuti qui nei nostri studi di Blu Radio Veneto, nella redazione di Padova, per farci ascoltare il loro ultimo lavoro che si intitola Ruggine. Vogliamo capire anche il perché di ruggine. Se vi ricordate anche la formula chimica, magari, tanto per così. Allora, la formula chimica a memoria io non me la ricordo, ma sarei pronto a scommettere che neanche loro tre se la ricordano. No, però c'è del ferro, dell'acqua. No, esatto, ferro e acqua. Ma inizia con F! F3H2O sarà? Esatto. F3 più H2O, e il risultato che verrà fuori sarà... Ruggine. Oh. Sarà ruggine. No, esatto, guarda, da noi a Reggio ruggine si pronuncia così, ruggine, a denti stretti, oppure in dialetto persino è rosna. Rosna. Quindi se uno lo sente già cioè suona già come parola. Mm. E considerando la strumentazione che abbiamo noi, nel senso che abbiamo un organo da chiesa, Hammond, dei Leslie, io ho un Vox del 64, abbiamo tutte delle strumentazioni stra ricercate. Mm. Dove quando funzionano è perché come quando funzionano? Quando, no, il suo Hammond ha preso fuoco. Tipo poco tempo fa ha preso fuoco l'organo, però proprio fuoco. Si è riscaldato e ha preso fuoco mentre tra l'altro non ci crederete, ma ha preso fuoco durante, mentre lui stava provando Burn dei Deep Purple. Stavo giusto per dire questo. Appena finito è partita la vampa. È vero, guarda, è ufficiale. Mi stavo proprio appellando a Deep Purple perché mi ricordo che a fiamma viva. Che Glover dal vivo lo muoveva anche, no? Per dare dei suoni sempre diversi. Il tastierista può confermarlo in questo caso. A me si è incendiato. L'hai mosso troppo. Eppure c'è una bella ventola dentro, voglio dire. O no? Ma noi eravamo persino aperto perché... Anche per problemi di surriscaldamento l'abbiamo aperto. Sia quello lì che anche il Leslie sono esatto. Aperti. Mm. Oppure tipo, non so, io ho un Vox del 64 che è stata soprannominata la lavatrice, perché tipo quando a certi volumi inizia a tremare, si muove da, sembra tipo un essere da solo, ha una sua esistenza e funziona da solo, fa tutto da solo. Fantastico, sul palco potrebbe fare anche ritmo. No, esatto, quando va in centrifugazione, sì. C'è da stare attenti, però è interessante. Si accende quando vuole lui. Quindi quando questi strumenti si accendono vuol dire che si è creato una sorta di contatto tra ruggine e polvere che ha permesso di portare a casa un suono, ecco. Vabbè, allora qua in studio di ruggine ce n'è poca, di polvere non so se sia venuta la signora che abitualmente segue le pulizie. Comunque... No, direi che è bello, qua è abbastanza pulito rispetto alla nostra sala prove. Si sta bene, piuttosto sì, c'è anche più caldo. No, assolutamente sul caldo posso dirvi che anche d'inverno qui si sta bene. Non vi dico d'estate quali possono essere le temperature dei nostri ben amati studi. Allora, vediamo di portare ancora un po' di calore con la vostra musica dal vivo. Cosa c'è che bolle da quelle parti? Guarda, certi giorni. Certi giorni, via. Perché ogni volta che qualcuno ha un'idea, ma perché non riesce mai a realizzarla? Ma perché c'è sempre qualche cosa che non va? Ma perché la ruota non gira per il verso giusto? Ci vorrebbe una rivoluzione. Certi giorni capisco cosa sto facendo, certamente non sto lavorando per me. Certi giorni non capisco che cosa mi prenda, che non mi fa star bene. Perché c'è chi prende sempre la vita come sfida, c'è anche chi sta buono e zitto al proprio posto. Ma perché c'è chi ti prende in giro e chi non sa come confonderti? Ci vorrebbe una rivoluzione. Certi giorni non capisco cosa sto facendo, certamente non sto lavorando per me. Certi giorni non capisco che cosa mi prenda, che non mi fa star bene. Certi giorni non capisco cosa sto facendo, certamente non sto lavorando per me. Certi giorni non capisco che cosa mi prenda, che non mi fa, che non mi fa, che non mi fa, che non mi fa, che non mi fa star bene ogni volta. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoli qua, i certi giorni degli Elisabeth. Gli Elisabeth che sono venuti a trovarci qui a Blu Radio Veneto per presentare il loro lavoro che si intitola Ruggine. E allora questi giorni come erano vissuti in questa canzone? Beh, non erano splendidi, nel senso mi sembrava di... nel senso che il concetto era una delle tante situazioni dove noi come band stavamo accompagnando degli altri cantanti, e la situazione generale era: certi giorni non capisco cosa sto facendo, ma sicuramente non sto lavorando per me, cioè nel senso era proprio un puro lavoro, e non era neanche detto che... cioè non ci stavamo divertendo più di tanto, ecco. E questo finale a Kate Moon, alla Who praticamente, che ha fatto il batterista. Ecco, vai, me lo rifai un secondo. I tre colpi? No, i tre colpi, sì. Allora, facciamogli quelli... E qua? Di là, vai. Ecco, questo era proprio... Ecco, che effetto faceva il cantautore quando allargavate il raggio d'azione? Questo te lo dico io perché io sono solo... Vai, Smiro, vai. Troppo divertito tutti questi anni a vedere questa scena. Ecco. Allora, il cantautore, quando doveva fare i finali dei brani, invece che chiamare nel senso che decideva lui quante volte chiudere, era lui che decideva. Sono sempre stato io. Senza dire niente al cantante. Quindi tutte le volte lui gesticolava sul palco, questo poveraccio, tentando di far vedere al pubblico che stava chiudendo il brano al colpo, immaginate la faccia, mentre Marco si voltava verso me e Francesco e faceva con la mano tipo 5, 3, 2. E quali sono i numeri di botte? Il numero di botte. Quindi automaticamente il risultato, lui si aspettava uno, si sentiva ba ba ba ba ba. Ma d'altra parte, cioè, il concetto è questo: la band risponde al direttore d'orchestra, non a uno che salta per il palco e inizia a dare dei numeri a caso come potevano essere i cantanti in quelle situazioni. quindi il cantante alla fine faceva sempre un salto in più, si può dire, no? o anche quattro in meno, già, ecco. Sì. Di solito gli giravano. Così. Più che altro avevamo anche dei problemi anche, cioè, a livello proprio puramente tecnico, tipo per quanto riguarda me, sì. Io ho molto modo di suonare che deriva da Kit Moon, quindi lui usava molto i piatti, era molto fracassone, sì, nel modo di suonare, non aveva il Charleston, i primi live non aveva il Charleston. Noi abbiamo sempre avuto a che fare con i cantautori che erano proprio cantautori, cioè proprio avevano in testa il suono pop italiano, quindi una roba molto minimale, con pochi piatti, cose. Cioè, tipo, datemi poco fastidio che così si sente la voce, esatto, e siamo tutti contenti. Cioè, esatto, molto la voce e voi state, cioè, come accompagnamento. Ma voglio dire, nel vostro curriculum non c'era scritto The Who? Sì, no, poi tra l'altro noi ci presentiamo sempre con, cioè, maglie, cioè, io questo, sì, cioè, ho la batteria, sì, insomma, sì, quindi sì, è abbastanza... E purtroppo ci si scontrava sempre con... Io ho una data dove Matteo delle volte non c'era, magari ci andavamo solo noi tre. Io a una data ho dovuto tirare via i piatti. Cioè, la scena è stata questa. Cioè, lui ha appoggiato una bacchetta sul piatto, quindi l'effetto è stato così. Il cantante si è tappato le orecchie come per dire: oddio! E lui: perfetto, lo tolgo. Tolto, ha fatto tutta la data senza piatti, era contentissimo. Il cantante era contentissimo. Lui un po' meno. Io un po' meno, mi sono adattato. Però... Anche perché se suoni per divertirti è un conto. No, infatti. Comunque... E da lì praticamente che è nata la storia delle... Troviamoci noi, sì, mettiamoci in proprio. Io avevo dei miei pezzi. E il concetto qual era? Che noi quattro, tutte le volte che ci siamo beccati insieme, abbiamo sempre siamo sempre rimasti contenti del groove che si veniva a creare. Cioè, perché di noi, quindi il concetto qual è? Più o meno, in realtà, se dobbiamo essere sinceri, sarà una decina d'anni che suoniamo assieme, tra una situazione e l'altra insieme. Finché ad un certo punto io avevo questi brani da parte e così via, e abbiamo detto: dai, troviamoci, proviamo a lavorarci. E abbiamo conosciuto Daniele Bagni, che è il bassista di Pelù, dei Litfiba, che è un personaggio simpaticissimo, ed è insieme a lui praticamente il che noi consideriamo un po' il babbo, ecco, anche ed è stato quello che ci ha obbligato, tra virgolette, a dire: dunque, adesso voi vi prendete, vi mettete in sala prove, così fate tutto il casino che volete e iniziate a lavorare sui vostri pezzi. Mm-hmm. Tant'è che inizialmente Ruggine era un cioè noi è da un po' che lavoriamo a Ruggine, nel senso che Barney, che è appunto Daniele, aveva comprato un piccolo registratore e così via, aveva voluto far lui l'investimento per registrare questi demo. Ah, quindi era assolutamente interessato, aveva capito la vostra energia. Sì, aveva capito. Noi tutto. Ancora oggi ci ridiamo sopra, nel senso che diciamo, chissà che cosa aveva capito, però dico qualcosa aveva capito. Poi se lo conoscete anche, cioè tipo cappello lungo, ha il pizzetto lunghissimo. Adesso purtroppo non abbiamo le telecamere staccate, se no vi facevo un'imitazione che era perfetta. E di colpo anche voi avete detto chissà in realtà che cosa aveva capito. Nel senso che noi ad esempio una volta, cioè noi abbiamo un racconto, noi siamo poi pieni di racconti perché poi scriviamo un libro. Sì, però il quando su, non ne potete più fermare. Oppure anche un concept album. No, esatto. Una serie di racconti vostri. Fare un come prima o poi ce la cacciamo dentro. E la scena era questa. Secondo me, tra l'altro, stavamo provando un mondo per me, che era uno dei pezzi sentiti prima. E Barney aveva le cuffie. All'orecchio, no? Perché c'era troppo volume, quindi aveva detto: cavoli, almeno mi appoggio gli auricolari, no? La scena era questa: finito il pezzo, lui ci guarda serissimo, oh bravissimi, bellissimo sound, vada Dio, fatene un altro. Noi abbiamo rifatto lo stesso pezzo aumentando il volume ancora. No uguale, uguale. E secondo me era l'unica volta che ci è venuto due volte su due identico perfettamente. Lui, finito il pezzo, ci ha guardato con sguardo serissimo impassibile e ci ha detto: oh, questo pezzo è ancora più bello dell'altro. Quindi ancora noi oggi siamo qui con i chissà cosa aveva capito realmente, però comunque. E soprattutto speriamo non stia ascoltando in streaming audio. No, non lo so. Però oppure bene. No, alla grande. Certo. Anche fa anche una parte nel, cioè lui fa la parte del papà nel CD e nella vita reale, nel senso che al di là che è sposato con un figlio, ma ci considera anche un po' i suoi figli. A me abitualmente ogni volta che lo sento al telefono la prima frase è: Marco, studia. Cioè, per lui io dovrei, se passo mezz'ora senza la chitarra in mano o senza un libro di testo di musica, è un problema, cioè mi si arrabbia proprio. In uno dei pezzi che è La mia generazione, nel disco potete sentire lui che c'è una frase che fa così: già mi sveglio la mattina. Aspetta, no. Già. Praticamente la frase è così. Io dico: bella la frase. E si sente Barney che entra dentro e dice: io alla tua età. Cioè, che è il papà praticamente che come al solito dice: io alla tua età avevo già fatto questo. Tu ancora sei lì così. E invece dopo poi ci siamo noi che da bravi ragazzuoli gli rispondiamo: senti, la mia era un'altra epoca. Quindi è tutto uno scontro così. Però da questi scontri tra noi e Barney più delle volte nascono comunque degli spunti di riflessione e delle idee. E poi sono nati gli Elizabeth, perciò cioè... Certo. Ottimo. Allora io direi che è pronto sul CD per partire proprio la mia generazione, che è questo. Ah, allora via. Che hai presentato così bene e che merita di essere ascoltato. Quindi eccola qua, La mia generazione. Svegli la mattina e già mi pressi per come vado fuori. Avresti dovuto vedere com'ero messo ieri sera, e tanto se sto ancora in piedi. Ma per quello che faccio è già qualcosa se riesco ancora a deluderti. Io io non ho rispetto per le regole. Immagina la voglia di ascoltarti ancora un po'. Questa è la mia generazione. Questa è la mia generazione. E va bene, va bene, va bene, va bene. Ma che ti piacciono, io sono questo qua. Bella la frase. Io? Alla tua età? Senti la mia, era un'altra epoca. E se il lavoro che faccio non ti soddisfa ancora, beh, sono il problema della tua generazione. Questa è la mia generazione. Questa è la mia generazione. E va bene, va bene, se taci va bene. Ma che ti piacciono, io sono questo qua. Già mi svegli la mattina. Già mi svegli la mattina. Dalla tua bocca sento uscire solo frasi inutili. Solo frasi inutili. Questa è la mia generazione. Questa è la mia generazione. Questa è la mia generazione. Questa è la mia generazione. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccola qua, la mia generazione, a cantarla e suonarla gli Elizabeth dal loro lavoro che si intitola Ruggine. Tra altre cose, la mia generazione riguarda anche un titolo, visto che abbiamo citato più volte gli Who, ricordiamo che ci sono proprio My Generation di Roger Daltrey and Company. Allora, la mia generazione, abbiamo già parlato prima del disco, abbiamo anche conosciuto la voce di Barney, mi pare sia proprio questo, il papà, diciamo, del gruppo Elizabeth, il padre non vero all'anagrafe. Ma abbiamo anche il nonno, comunque. Avete anche il nonno? Che è Mel Previte. Perfetto. Che c'è anche lui nel disco. Ah, esatto. Benissimo, ci sono proprio tutti i personaggi. Insomma. Quindi poi sì, verso la fine avete anche un elenco di ospiti, c'è Carmelo Previte, poi ancora Marta Vigna. Esatto, che ha suonato ancora l'arpa, che è stato sì, un incontro per caso ed è venuta a suonare l'arpa, nel senso che lei è di Udine, noi siamo di Reggio Emilia, ci siamo incontrati per caso un pomeriggio. Lei stava suonando questa arpa per i fatti suoi e io le ho detto: guarda, cioè tu non cioè se ti va di passare un pomeriggio con noi, l'abbiamo presa, l'abbiamo buttata in studio, gli abbiamo fatto registrare tutto. Sì, qualcuno gli ha portato anche l'arpa, perché non deve essere sì, uno strumento facile da trasportare, pesantissimo, però c'eravamo conosciuti tipo da mezz'ora, una sì, roba del genere, anche perché non è che la trovi per la strada una con l'altra. No, infatti, no? La prima volta che l'abbiamo beccata tipo per la strada, l'idea sì, è stata proprio tac, adesso vieni a fare un giro con noi, carica tutto in studio. E poi ancora ospiti nel vostro disco c'è Marco Parmigiani, giusto, che suona la pedal steel con la canzone Io convivo con me, un titolo alquanto particolare. Poi Daniele Barni Bagni, che abbiamo appunto appena sentito con la voce in La mia generazione. E poi ancora Giovanni Zanti, che è il nostro barman. Ah, è quello della frase iniziale. Quello della frase iniziale. Ah, è lui. Ho capito. Benissimo. Allora, Maurizio, il solito giochino per sì, capire. Facciamo, esattamente. Facciamo il solito giochino. I dischi da portare su un'isola deserta o i CD. Facciamo una cosa ridotta, visto che il tempo è quello che è. Allora, però io più o meno so alcuni che portano loro. Quindi io porto Stanley Road, Damian Rice e porterei il primo e poi dopo Regeneration dei Divine Comedy. Perfetto, io vorrei chiederti perché Damian Rice, musicista straordinario, irlandese però non inglese. Esatto. Guarda, io l'ho scoperto attraverso il film, che adesso non mi ricordo più come si intitola, dove praticamente lui faceva Blows the Water. Sì. Suo disco, il pezzo lì. E Closer. Era Closer, forse, esatto. E io me ne sono innamorato. Cioè, proprio incredibile. Da lì ho preso il disco e ce l'ho ancora nel mio lettore in macchina. E quel disco lì per me è uno dei numeri uno. La tua colonna sonora. Che ci sia, sì, sì. Ok. Tocca a voi. Battista, che hai una voce tuonante, spara i tuoi. Ah, perché io non arrivo al Montecitorio. Ecco, esatto. Naturalmente. Naturalmente fa riferimento ai nostri bei microfonini, che sono molto simili a quelli che ci sono presenti al Parlamento, che sono stati utilizzati molto spesso in questi ultimi due giorni. Ci hanno dato dentro questi. Sì, dai, che ti diamo la fiducia anche a te. Dai, vai. Però stendiamo un velo sul discorso di quelli che non si sa mai. Sì, certo. Allora, io porterei Borturan. Il boss. Il boss. Assolutamente, sì. Il boss. Sì. Borturan, perché secondo me è uno dei dischi rock, è una pietra miliare, secondo me. Poi porterei Sell Out. Vecchio grande disco dei U. Sell Out, per il discorso di questi piccoli spot pubblicitari, sì, finti per le radio pirate che nascevano all'epoca. E sotto, poi c'è il boss. E sotto c'è Borturan. Sì. Trovata per sbaglio. E poi, ovviamente, secondo me il mio disco, direi preferito, o comunque dal secondo preferito della mia band preferita, Tommy. Sempre You. Sì. Sempre rock opera, praticamente. Sì, sì, sì, secondo me Tommy. Versione cinematografica o versione da rock opera proprio all'inizio? No, versione rock opera. Cinematografica, secondo me, potevano fare meglio. Ma non ami Ken Russell, allora? Il regista, non ami il regista? Ma no, il regista non mi dispiace, però direi che insomma col film potevano fare un pelo meglio. Un pelo meglio. Ma è difficile trasportare una rock opera in un film, è molto difficile. No, non salvo neanche Eric Clapton. Non lo salvo. Lì purtroppo non lo salvo. No. Bene. Il nostro grande bassista. Ma bisogna portare il suo 3. Il tempo è quello che è. Avrei una parata. Lo so. Comunque, se devo ridurre a 3, senza ombra di dubbio, porterei Led Zeppelin 1. Che per me è stato quello che mi ha. Con quel disco lì, io mi è venuta voglia di suonare. Appena ho sentito, ero piccolissimo. Poi porterei The Dark Side of the Moon. Come mai quel disco dei Pink e non prima e non dopo? Perché a me quel disco lì, quando lo ascolto, le volte che lo ascolto mi metto sempre in una certa situazione, cioè buio totale, e di solito mi addormento, però mi dà, non lo so, cioè mi dà un'atmosfera che, cioè, io ho bisogno almeno una volta al mese di ascoltare quel disco, non lo so perché, ho un bisogno che... Perfetto. Ho detto, e poi Quadrofenia. Quindi You proprio, sì. tutto Sì, sì, io quei tre dischi lì, se devo ridurre a tre, quei tre lì. Ok, tocca a te. Vabbè, detto appunto già gli altri, quelli belli così, io mi porterei solo una cosa a questo punto, perché gli altri sono già stati messi sull'isola, e mi porterei il mio cofanetto dei Velvet Underground. Ah, ecco. Straordinario, cosa dici, Flavio? Straordinario. Sei presente anche Nico, provo. Sì, sì, beh, il primo. Ok, c'è proprio, allora, sì. La musa. Esatto. Incredibile, bravissimo. Altra cosa, sta andando molto bene anche la ristampa in CD di quella copertina firmata da Andy Warhol con la banana. Ce l'avrò in 3-4 versioni. Ormai, ecco, con la banana che si può togliere. Sì, poi anche. Le ho comprate tutte. Si può sbucciare, vero? Le ho comprate tutte ormai. Cioè, nella versione originale c'era anche un qualcosa del genere, no? Che si poteva sbucciare, ma era un'edizione molto limitata. E chi ha la versione originale sicuramente sta bene dal punto di vista economico, costa un sacco di soldi. Ed era una cosa. Noi abbiamo. nostro il cofanetto. Noi, cioè, noi abbiamo. Io il cofanetto ho scritto Pill Slowly in C. È una bella versione. Via la... E puoi sbucciarla, infatti. E quindi è una versione ottimale, quella là, di un certo rilievo, di un certo peso economico. Beh, domani lo vendiamo. Non sapevo di questo valore. Andy Warhol è sempre stato un genio, in ogni caso. È un genio. Ha scritto anche, ha inventato Stick Finger. È stato Andy Warhol, dobbiamo dirlo, ste robe. Famosa cerniera, Flavio, ti ricordi? Ah, sì, sì, certo. Esatto. Certo. E allora, noi continuiamo con la musica, visto che il tempo è sempre molto tiranno, lo confermava anche Attila nelle sue escursioni e incursioni. E allora ascoltiamo ancora della musica proveniente dai vostri strumenti, carissimi Elizabeth. Ah, facciamo schizofrenia, vi va? A voi? Via. Vabbè, sì. Noi... No, no, a voi parlavo dei miei tre compari. Qua ancora con gli Elizabeth, un'altra canzone tratta dal loro ultimo CD, ricordo agli ascoltatori che si intitola Ruggine, e tra altre cose all'interno della copertina c'è la soluzione magica anche del della formula per ottenere la ruggine. Però due sono le cose: o andate a vedervela in qualche libro di chimica, o andate a comprare il CD degli Elizabeth, voglio dire. O no? Che, sì, io opterei per l'acquisto. Sì, secondo me è una splendida idea. Anche perché se devi proprio cercare solo la formula della ruggine, un libro devi sfogliarlo tutto, sì, di sì, chimica, certo, certo. Poi dopo vogliono farti arrivare col ragionamento. Sì. No, invece noi ve la scriviamo, avete già la soluzione. No, tra le altre cose vediamo il nostro Facebook, che noi usiamo un sacco, che è facebook.com/elisabethband, e scrivete direttamente a noi, cioè lo gestiamo noi, non abbiamo l'ufficio che lo gestisce, perciò in automatico qualunque commento vogliate fare arriva direttamente. Abbiamo anche il MySpace, che è myspace.com/elisabethdisinfettante, che disinfettante è un titolo di un altro pezzo del disco. E poi dopo, chiaramente, se siete intenzionati a comprare il disco, al di là del fatto che lo potete trovare al Media World o ovunque, ecco, basta richiederlo, ma è distribuito Universal, quindi è ovunque. E lo trovate sullo store della Mezcal, che soprattutto in questo periodo dell'anno spesso ci sono degli ottimi incentivi, nel senso che credo con pochissimi euro uno si porta a casa 10 dischi tra i più famosi della Mezcal, ecco, quindi magari anche After Hours, Subsonica e anche il disco degli Elizabeth, certo, ecco, perché no? E citiamo finalmente la Mezcal. Noi... Flavio la conosce benissimo, un'etichetta sì. alternativa indie molto importante, che dopo un periodo di oblio finalmente è ritornata. No, infatti noi siamo emozionatissimi di essere in Mezcal, e cioè direi che è sempre stato uno dei nostri sogni, nel senso che dalla stanzina nella nostra fattoria non pensavamo di riuscire a farci sentire fino a Nizza Monferrato, certo. Invece ci siamo riusciti, e noi li dobbiamo anche ringraziare un sacco, perché il disco e tutto quello che c'è stato dal video di Piove su Milano all'ultimo che abbiamo registrato a Londra, che lo potete vedere in realtà già da oggi su MTV, oggi tra l'altro, e insomma sul sito di Rolling Stone, sì, anche c'è, esatto, c'è in anteprima web invece sul sito di Rolling Stone, se volete andarci lo trovate, Rolling Stone Magazine. Sì, scusami, stavo curiosando sul sito della Mezcal, e ci sono proprio le super offerte di Natale con infatti. CD di Subsonica, anche degli After Hours come ricordavi, poi ancora Morgan e di Mau Mau. Sì, esatto. Cioè, praticamente fanno tutti gli anni, io lo sapevo già ancora prima di essere in Mezcal come artisti, facevano delle ottime offerte dove praticamente, non so, a volte persino era 10 dischi a 10 euro, ecco, della roba del genere, che per Natale, secondo me, regalare dei bei dischi sarebbe un ottimo regalo, ecco. Assolutamente sì, e non solo a Natale, certo, perché c'è certo. sempre bisogno di musica nuova per le nostre orecchie. Il catalogo della Mezcal è un catalogo molto importante, Subsonica, After Hours, Morgan, tante cose importanti, hanno fatto la storia dell'indie italiano sicuramente. No, esatto, poi adesso noi comunque siamo di parte ormai, però parte, sì. Secondo me è una delle pochissime etichette che ci sono in Italia che hanno fatto la differenza, nel senso che sono andate il più delle volte controcorrente, anche come scelte o così via, ma si sono sempre basate sul live, quindi c'è una band, se funziona dal vivo allora ecco. funziona, e hanno sempre poi trovato delle soluzioni bellissime, ecco. Prima il live, il discorso, come tu giustamente hai detto, se funziona il live vuol dire che il gruppo funziona, quindi esatto. si può incidere praticamente. esatto. Bene, allora mancano, Maurizio, 8 minuti alla fine della nostra programmazione musicale, vogliamo ascoltare ancora qualcosa dal vivo degli Elizabeth? Allora guarda, sì. ti facciamo Io convivo con me. Benissimo, allora, Io convivo con me è un titolo abbastanza particolare, poi ce lo spiegherete anche. Il dubbio è chi sì. è me, ecco. Cioè se sono io o non sono io, ecco. O se è un giapponese, esatto, sì. bisogna vedere. Benissimo, allora dagli studi di Blu Radio Veneto ancora una canzone dal vivo degli Elizabeth per voi, carissimi ascoltatori. Persone che vanno alla ricerca di conferme e sono una di questa qui. Ci sono persone che non si accontentano mai di niente, e sono un'altra di queste qui. Sembra chiaro che c'è qualcosa che non va, forse l'ansia da cercare sempre la felicità. Io convivo con me e ci sto pure bene, anche se a volte ci sono alti e bassi. Io convivo con me e ci sto pure bene, anche se a volte ci sono alti e bassi. Ci sono persone che si perdono e si cercano in continuazione, e sono un'altra, eccomi qui. Ci sono persone che non hanno mai tempo per sé, e sono un'altra di queste qui. Sembra chiaro che c'è qualcosa che non va, forse l'ansia da cercare sempre la felicità. Io convivo con me e ci sto pure bene, anche se a volte ci sono alti e bassi. Io convivo con me e ci sto pure bene, anche se a volte ci sono alti e bassi. Ogni cosa andrà al suo posto. Cosa sarà come la volevi te? Ogni cosa andrà al suo posto. E ogni cosa sarà come la volevi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, abbiamo ascoltato anche questa Io convivo con me, per la precisione la traccia numero 11 di questo nuovo disco di Elisabeth, che si intitola Ruggine. Tu hai parlato di cantautorato, almeno la parte iniziale e centrale è molto cantautorato. Dopo hai tirato fuori la grinta da rocchettaro, però è un cantautorato bello, acustico. Esatto, esatto. Beh, diciamo che il fatto che comunque parlo di me, certo. Quindi in teoria dovrebbe già essere abbastanza cantautore, ecco. È vero, chiaramente sì. No, è fatto, il pezzo era molto bello, la versione acustica, versione per rock wave, chiaramente. Esatto, esatto. Poi nel disco invece è bello perché c'è appunto la pedal di Marco Parmigiani, che ringraziamo, che tra l'altro suona in una band che si chiama Stoop, che è un'altra band delle nostre zone, anche questa indipendente. E l'abbiamo conosciuto appunto grazie a Carlo Enrico Pinna, che è il praticamente ci ha aiutato alla produzione artistica del disco. Del disco. Ecco. Quindi la produzione artistica è vostra e di questo caso. Esatto, esatto. Nel senso che il più delle volte funzionava così. Ultimo aneddoto dopo. Sì, sì, sì. La regola era questa: tipo, noi eravamo al di là del vetro, quindi tutti nella stessa stanza. Lui era da questo lato, e il più delle volte era tipo, soprattutto Cosmiro: Smiro, stai concentrato, sveglia! E con anche E quindi in automatico ci riusciva a tirare fuori tutta questa cattiveria. Perché è sardo. Esatto, il fonico è sardo e quindi in automatico c'aveva un astio dentro tutto suo, solo perché poi noi il disco l'abbiamo registrato all'esagono di Rubiera e quindi nebbia e zanzare a go go. È un sardo in mezzo alla nebbia, appunto, è un disastro. È invivibile. Impazzisce quasi, voglio dire. Vabbè, allora Maurizio, noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questa piacevolissima conversazione. Perché sì, con gli Elisabeth ci vorrebbe un'altra trasmissione per parlare di tutti i loro... Vabbè, noi torniamo, sì, vi presentiamo il libro, tanto... certo. Anzi, vi ringraziamo un sacco per l'opportunità, e infatti grazie mille da parte di tutti, ecco. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, Maurizio, prima di concludere con gli Elisabeth, che in questo caso vorrei far concludere proprio live con un'ultima canzone, se siete d'accordo anche voi, ragazzi. Sì, sì, sì, ben sì, venga. Bene. E così poi sfumiamo e diamo la parola all'onda del rock che arriverà più tardi con il nostro DJ Renato Ferro per la presentazione di Hard Rock e Heavy Metal più tardi, dopo le 22:30. Maurizio, una breve presentazione per le prossime serate live. Sì, domani sera ci sarà un'altra serata live condotta in regia da Michele Tosoni, gli Unrest, un gruppo di Pavia, gruppo con un CD un po' particolare, una piccola storia tra il folk e il blues, da ascoltare attentamente. Poi la prossima settimana avremo tre live consecutivi, un cantautore sempre dalle vostre parti, acustico, che ha un nome straniero, un nome inglese. Poi martedì avremo, che magari è lo stesso cantautore con cui suonavate voi. Può essere. Sì. E poi avremo martedì un cantautore di Roma e un mercoledì una band degli anni 70-80 prodotta da Vannuccio, che ci porterà mercoledì prossimo. Va bene, ma torniamo a parlare, anzi a sentire la musica degli Elisabeth, che ancora una volta salutiamo, ma non devono lasciarci se prima non ci hanno fatto ascoltare il loro ultimo pezzo che prima presenteranno. Allora guarda, ti facciamo disinfettante. Io spero che non rompano niente, non venga voglia di romperti lo studio, di spaccare il microfono per terra, sì? Perché questo pezzo noi lo sentiamo molto e lo temevamo sin dall'inizio. Però, in questo caso, però a vabbè, questo punto vi tocca, via. Lo ascoltiamo, speriamo che i livelli dei microfoni tengano. Al massimo poi domani torniamo, ricostruiamo poi tutto, cioè, non c'è nessun problema. Benissimo, allora dai microfoni di Blu Radio Veneto finché si potrà ascoltare la musica degli Elisabeth. Grazie di essere stati con noi, carissimi. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie a voi. Mi sono perso e non riconosco più la strada, ciò che uccide, ciò che non si conosce, però l'abitudine è una lurida malattia, ti brucia il cervello, è meglio evitarla. E così tutto ciò che non uccide fungeva disinfettante per la pelle. È meglio non andarsene a cercare, io non riesco a stare fermo. Cerchiamo le vacanze tutti i santi giorni dell'anno, e quando arrivano siamo più stanchi di prima, perché l'abitudine è una lurida malattia, ti brucia il cervello, è meglio evitarla. E così ciò che non uccide fungerà disinfettante per la pelle, e anche se è meglio non andarsene a cercare, io non riesco. spot. Telechiara. Da 20 anni la voce del Nord-Est la trovi sul tasto 14 del telecomando. Per informazioni telefonare allo 049 84 81 900 o visita il sito